Perché ha fatto questo appello? È ovviamente un'inserzione pubblicitaria, ma che vuol dire che cerca stabilità, dignità e futuro nella politica di governo? Cosa non vede di tutto questo? Sì, ecco, premetto che non è una semplice, diciamo, inserzione pubblicitaria, perché siamo arrivati a un punto, parlo da imprenditore, di dover capire cosa dobbiamo fare del nostro futuro, perché le aziende qui non hanno più la possibilità di avere un futuro, di avere una dignità, di avere la voglia, no, di poter andare avanti. Infatti la nostra intenzione è che, se non cambiano in fretta le cose, di trasferirci in un altro paese, in Austria. Abbiamo già avuto dei contatti, lo Stato austriaco è già venuto anche da noi, conoscendo, diciamo, la realtà che noi esprimiamo, a cioè, farci delle offerte. Quindi lei sta dicendo che è in ipotesi, anche se non cambia qualcosa. Ci faccia capire l'elemento di maggior favore che la spingerebbe ad andare in Austria, cioè lo Stato austriaco. L'ha detto qualcuno, qualche emissario è arrivato lì e vi ha detto che cosa? Noi in Austria possiamo darvi che questo che in Italia non c'è. Che cosa, per esempio? Guardi, io le dico, intanto l'Austria ci offre rigore, è la cosa che io ho sempre perseguito. Perché con rigore si riescono a fare dei progetti, si riesce a programmare. Diciamo che l'Austria offre tutto quello che l'Italia non offre. Lei pensi che un permesso per costruire un'azienda, la risposta sia dai 2 agli 8 giorni. La tassazione è al 25% fissa, tutto, diciamo, non ci sono, tutto scaricabile, e addirittura c'è, nel nostro campo c'è ci danno un contributo fino al 40% a fondo perduto a presentazione fattura se costruiamo uno stabilimento. Inoltre la cosa più bella è questa, che la frase poi che mi ha diciamo conquistato, è che per qualsiasi controllo fiscale, diciamo che lo Stato ti telefona, ti chiede se gentilmente può venire a controllare i tuoi conti o se preferisci che vengano in azienda o trovarsi dal commercialista. Ecco, questo è uno Stato per me di diritto ed uno Stato che io amo, perché noi come azienda non siamo mai stati degli evasori, e quindi e questo è un atteggiamento giusto per chi è onesto.